Io sono Francesco D'Enrico, fondatore e presidente dell'Associazione Extrema Ratio, che è un'associazione culturale nata nel 2018 con l'obiettivo di promuovere e divulgare la cultura del diritto penale liberale e costituzionale, quindi di promuovere un'idea di diritto penale minimo. In che senso? Nel senso che secondo noi il diritto penale è un male necessario, ma se si va oltre la necessità resta soltanto il male. È lo strumento più forte di cui lo Stato dispone, perché è privativo del bene più grande che abbiamo dopo quello della vita, che è la libertà personale, e quindi va utilizzato in maniera proporzionale e possibilmente entro i limiti indicati dalla Costituzione, nel rispetto del principio di umanità, nel rispetto del principio di rieducazione della pena, che sono però purtroppo principi assolutamente disattesi nella realtà quotidiana delle carceri, che vede un tasso di sovraffollamento esasperato e un numero di suicidi crescente, un fenomeno purtroppo stabile. È patologico, ma è una patologia ormai cronica, non è una, come dire, eccezione, o meglio è un'eccezione alla legge, è un'eccezione alla Costituzione, ma ormai si è consolidata. E quindi di qui l'idea di collaborare insieme alla Camera Penale, che ci ha proposto questa iniziativa, al progetto di portare in Piazza Maggiore una cella. L'idea era proprio quella di rimettere al centro dell'attenzione il carcere, ma rimetterlo al centro dell'attenzione offrendo una prospettiva molto diversa da quella che tendenzialmente invece ritroviamo sia nel dibattito mediatico che nel dibattito politico, dove il diritto penale in generale e il carcere più in particolare vengono presentati come soluzione a qualunque problema di natura sociale, quando invece per noi, appunto, come dicevo prima e come dice anche il nostro nome, dovrebbero essere l'extrema ratio. Quindi l'occasione per poter rilanciare la necessità di rispettare i diritti che citavo prima, ma anche per spiegare che effettivamente, se questi non ci bastano, cioè se l'idea di rispettare il principio di umanità non ci interessa, dico provocatoriamente, allora almeno che ci interessi l'aspetto utilitaristico della vicenda, cioè che i dati dimostrano che effettivamente il carcere non produce affatto più sicurezza. Cito due dati al volo: chi esegue la pena integralmente in carcere torna a delinquere nel 70% dei casi, chi invece accede alle misure alternative torna a delinquere nel 17% dei casi, quindi c'è una differenza importante, e chi addirittura durante l'espiazione della pena ha accesso a percorsi di tipo formativo e lavorativo torna a delinquere solo nel 5% dei casi. Quindi bisognerebbe ribaltare il concetto: più misure alternative e meno carcere, rendere le misure alternative non un'alternativa alla detenzione, ma la misura principale. Il Presidente della Camera Penale ha parlato di indulto, clemenza. Secondo voi nell'immediato possono essere delle soluzioni? Allora, sarebbero delle soluzioni irrinunciabili in questo momento, perché uno Stato forte, uno Stato serio, non è uno Stato che risponde a chi ha commesso un crimine violando a sua volta un diritto, perché questo è un crimine, è la violazione di un diritto di un altro, e che lo Stato utilizzi un metodo, seppure legale teoricamente, appunto, come quello della pena, ma fuori dai principi che dicevo prima, e quindi che poi si sostanzi in realtà in una esecuzione illegale, non è ovviamente accettabile. Quindi indulto, amnistia certamente sarebbero strumenti utilissimi dal punto di vista emergenziale adesso, quantomeno per contenere gli effetti peggiori del sovraffollamento. La realtà politica però ci dice che sono impensabili. Ecco allora che si era aperta una finestra di speranza a cui noi pure nel nostro piccolo avevamo contribuito quest'estate, grazie al lavoro incessante di Rita Bernardini, che ha coinvolto il presidente La Russa, quindi presidente del Senato, figura evidentemente di spicco di questa maggioranza, sul tema, provando a proporre quantomeno delle forme di liberazione anticipata, seppure con mille caveat, per trovare una sintesi di compromesso che certamente non avrebbe risolto il problema, ma avrebbe contribuito quantomeno ad alleggerire la problematica. Ecco, purtroppo le ultime notizie ci dicono che, nonostante il lavoro di La Russa, che pure va riconosciuto, perché mentre questa maggioranza in generale per questo tema si è impegnata veramente poco e anzi purtroppo ha contribuito ad incrementare il sovraffollamento anche nei minorili, penso al decreto Caivano, il presidente La Russa va dato atto che, su spinta di Rita Bernardini, quantomeno aveva provato ad aprire un dialogo, però questo dialogo sembra aver fallito, perché noi abbiamo contribuito nel nostro piccolo, perché a giugno abbiamo portato con noi al carcere della Dozza tre parlamentari, e non diciamo tre parlamentari a caso. Abbiamo portato con noi Roberto Giachetti, Italia Viva, che però ha una storia radicale nota e si è sempre impegnato per questo. questo tema. Abbiamo portato con noi il senatore Pio Ferdinando Casini, perché era intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera parlando proprio di quel tema poco prima della nostra visita, e poi il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, proprio perché volevamo assolutamente che ci fosse con noi un esponente della maggioranza e un esponente del partito Forza Italia, che comunque dentro la maggioranza si è sempre impegnato di più per i temi delle garanzie, proprio perché noi crediamo fortemente nel dialogo tra quelle forze che contengano al loro interno un minimo comune denominatore liberale. Non ci interessa coltivare una prospettiva che sia di destra o di sinistra, ci interessa coltivare, nell'ambito di cui ci occupiamo, il diritto penale, un dialogo che porti al risultato migliore possibile date le circostanze. E quindi proprio sulla base di questa volontà di dialogo laico abbiamo coinvolto queste tre figure, però le notizie purtroppo non sono positive e noi di certo, come dimostra l'iniziativa di oggi, non ci fermiamo, continueremo a farlo perché siamo nati con questo obiettivo.